Beppe Briciola. Attento Billy, su che andiamo, su, su. Sì, sì. Sto sgranocchiando. prendo semi di zucca, buona rete. Non si mangia niente. Semi di zucca. Non me lo manca, io l'altro giorno mi sono comprati i datteri. Erano spugli, proprio c'è la pelle e il collo, la pelle e il nocciolo, non c'è la polpa. Come mi piace? Preferisco di più che i secchi. A Garigagnogna. Ah? Sai come si chiamano i sassanesi? Garigagnogna. I figli? Sì. No, non so però. A Garriga. Garigagnogna la chiamano così perché se le prendevano per andare di corpo. Pelle, le prugne. Ah, paiso. E allora? Garigagnogna. Ehi, e fichi sì. Vabbè, io non è che ne mangi molti, ne prendo uno, due. Però li ho trovati più pulposi altre volte. Questa volta, ragazzi, li ho comprati e erano secchi, bro. Immagino. Vabbè, c'era mille luci. Non avevo voluto molto più, uno svizzero e non mi ha cacciato. Vabbè. E a Rattani cosa fai? Io sono invitato da due parti, ma non so dove andare. Sono fatti la bocca per andare, no? Vieni da me, vieni da me. Alla fine mi sa che non vado da nessuna parte, non faccio torti a nessuno. Ah, capito. Io lo passavo sempre da lì. Non me ne ho fatto un cazzo, lo passo dall'altra parte. Se lo passi con l'altro. Casino. Mi stanno venendo i soldi, no? Non hai trovato nulla ancora. No, sto aspettando una chiamata. Quando devo entrare a consegnare elettrodomestici. E poi mi ha mandato un messaggio dicendomi che lo sta provando uno più giovane di me. E paga le monotasse, se non mi ricordo come si chiama, bolla. Quello gli altri principali. Comunque tu mi fa sapere. Ah, ne ha trovato uno più giovane. Tu sei già grandetto per certe cose. Poi io sono tutto a dolori, mi sono alzato stamattina che ero vicino, tutto a dolori, le braccia, le gambe, deve essere qualche forma influenzale. Vabbè, già dove vuoi sei messo? Non ne parlo poi. Vabbè. Proprio lì che ci sono. Vabbè, tranquillo. Che baguette. Che avevo così dico. Io sono un po' scottato, però già sto continuando. Ho capito. Che sono un po' scottato, ho detto, ma già sto continuando. E Antonio, contento di bevermi, lui. Beh, allora. E beh, Antonio. E non vedi che altre ore che chiamavo, se non rispondeva Luca non sarei entrato. No, stavo oggi c'è un po' di cose da fare, c'è un po' di gazzini da sbrigare. Adesso mi sto facendo la pasta, stanotte con frutti di mare, eccetera, eccetera. Ah, avanti. E allora, cosa? Le pennette, tra poco sono pronti e si magna. Ho capito. Col sugo o in bianco? No, in bianco. Ho capito. Raga, vabbè, è muto, però vi tengono mattessi. Mia, bebe. Cosa? Ciao Gianni, ciao Antonio. Ciao Tony. Hai visto la foto che ho mandato? Ciao Tonino, ciao Antonio. Lo fa, sono tornato influenzato. Ho capito. Chi vuoi fare? Non ho parlato niente perché era a letto sino a poco fa. Sono Bernardini che sono a letto, ho influenzato. Ti ho mandato la foto della farina di ceci. Allora, al cola di costa, nero 89. E c'è, al cola di latte dolce. Aspetta che vado a guardarla. Giappa. C'è il coso un alto, certo, nero, il microfono. Se lo prendi nuda, certo. Aspetta che abbasso, va bene così? Fa un passaggio lungo. No, 1, 2, 3, prova di modulazione. E 40 centimetri distante il microfono, e l'ho messo così. Ora va bene. Avete parlato in due. Così va bene. Me l'ho comprata e mi sa che domani me la faccio. Cosa tu? La farina, domani mi faccio la farina, mi ho comprato la farina di ceci dal Conad. qualche di meno della Crai. Come differenza c'è da quella della Crai e quella della Conrad? No, non c'è nessuna differenza. E come costa? 1,89 costa, è buonissima comunque. È buonissima anche quella Conrad, non c'è nessuna differenza. Forse è più buona a me. Aspetta, che peso ha però la busta? Ok. Ricordate che vado a girare la pasta, mi sono andato, è buonissima comunque, lo sto usando, ma mi ho messo anche la pietra nel forno per uscire più, per entrare il calore migliore, mi è cata la teglia, ma è uscita la è mondiale, proprio buonissima, buonissima, croccante, croccante, buona, buona, buona proprio. Ma la busta quanto pesa il pacco che hai comprato? La pietra per mettere la pietra refrattaria. Io con una cosa mi hai quanti grammi è la farina che hai comprato tu? Aspetta che ho cambiato parecchio. Ho detto quanti grammi è la farina che hai comprato il pacco? Che pacco ho comprato? Da mezzo chilo. Allora costa meno della Crai, la Crai costa 2,50 e la 1,89 va bene. Scappa, ed è buonissima, ti posso assicurare, non è buona. Qui ti ho mandato la foto, Ma la foto sì, l'ho vista il pacco, ma non della farina. Ma non cambia nulla, sono cicci macinati sia uno che l'altro, sono sempre cicci. Sì, ma giustamente costa 1,89 e piglio 1,89 già, che 2,50. Beh, normale. Infatti sto dicendo, non è che come certe cose che può cambiare, ma questa è proprio farina di ceci, macinati. Vabbè. Che olio usi tutto lì? Di sì. Non ho capito, che olio uso? Per fare la farina cosa usi? Olio di semi o olio d'oliva? No, perdone, olio d'oliva. Perché mi pare che i funghi usano quello di siglo. Io mi ricordo che usavano quello di siglo. Chi non vuole spendere soldi? A me mi hanno dato 2 litri di verdone appena fatto, l'olio, buono. E tra poco me ne compareggio, un altro poco me ne compareggio invece. Perché quello che mi hanno dato me ne è messo 1 litro. 1 litro l'ho già fatto fuori. Adesso è un'altra cosa però già, dai, non le ho rifatti. Io c'ho quello canarino. Non mi sta manco facendo male, prima ero sempre in bagno, da tutti la che la comparavo, sempre in bagno, manco facendo in casa, e mi fa meno male, dico, cioè non mi fa di nulla, cioè vuol dire che c'è la differenza, perché sto usando l'olio buono pure. La fede lo fa anche tu, lo fa, ti fa anche bombardare. Tu prova a mangiare la mia, per se ti fa di nulla, o quella di Tonino. Guarda che quando la mangi domani fa anche la patacca di cacuzzato. A me non, cioè, mi fa meno male, vedi, quella là, la sera stessa, budubum, budubum, budubum, oh via, mamma mia, io avevo paura a comprarla, avevo paura, paura, paura. Adesso me la sto facendo io in casa, tutto un altro discorso. Ti fa fare aria, quello sì. Molto meglio, molto meglio. Quella è l'anima del ceccio che va in cielo. Lo so. Quella croccante mi ci dà la farina, indovinando me la misura, raga. Ne ho fatto 3 teglie addirittura, perché a me mi piace un po' fine. E ci dà che sta farina in vera, mondiale, croccante, croccante, buona. Tu pensa quanto ci guadagnano quelli della farina, e tu andiamo a fare, raga. Allora, cioè io con quei soldi ne faccio un bel teglia. Cioè, minimo che puoi spendere 15 euro, ma io con 15 euro quanto ne posso le teglie. E poi la puro me. Ed è più sano perché sai cosa ci metto tutto quanto. Tutto la fa cosa? Va bene a tutto, per forza. Va bene, io ho le ossa rotte che pare che mi è passato un tiro in tanto. Anzi, oggi sto un po' meglio. Ieri mattina ne che parlate. Oh Gianni, tu l'avevi conosciuto poi a Milene e anche da 21 Andrea. Bianco per me che vado a scuola a mangiare. A chi Tonino? bianco per te Antonio. Se l'è conosciuto a Miledi e a Pio 21, Andrea. Sì, sì, li sentivo, non è di vista, non li conoscevo, ma li sentivo all'apparato. Miledi è la sorella della mia ex moglie. E domenica mattina è morto il figlio, che già fatto un incipio del mio figlio, 44 anni. Che ricordi lui? Forse è fatto. Sta morendo troppa gente, Tony, giovane. La grande hanno fatto che ci vaccini, mi pare che ci sono eliminati a tutti. Hai ragione, sono due, non è molto più cupa. Senti, la giù mai fare il quarto, fare il quinto, ma se ammazza, se la fanno negli occhi. Io ne ho fatto tre, però sempre fatti li abbiamo. E dice che fanno effetto dopo un po' di tempo. Anche una mia ex che non aveva mai avuto nulla, non era né malata di cuore né nulla, ha fatto il vaccino, il giorno dopo gli ho avuto l'infarto e sono rimasta giovane, giovane. E ma con due sei meno, capito? Tre sei un po' di più. Boh, e chi lo sa cosa sta succedendo. Comunque il coso delle ossa ti posso dare la mano perché anche io sono uguale, sembra che manicuta a ruccio. Cazzo, tutte le ossa mi fanno male, dietro le ginocchia, le braccia, sopra le braccia dove c'è la scapola, tutto, tutto gatto. Sembro un vecchio. Mi sono alzato così stamattina e infatti ho preso un antidolorifico, ma non mi ha fatto più di tanto. Ma io sto prendendo anche pirina, mi sta passando la verità, oggi sto meglio. Ma io ieri avanti ieri, guarda, credimi, no, non riesci mai a capire, mi sono rimasto formulato nel letto e basta. Se mi sono mi ha portato cosa a mangiare, se ero due giorni che non mangiavo, non ci riuscivo, e mi ha detto, come non ti fai più sentire? E gli ho detto, guarda, sto male, e sono influenzato. Ho preso un colpo di freddo, punto, non lo so, perché febbre non ne ho. Caso strano anche Emanuele con la febbre a 40, caso strano anche Barbara, e la anche la sua domenica, c'è il suo compleanno, e c'è la zia, c'è la zia, che è Emilio Pino, tuo fratello, non si era mai usato, e mai per parlarsi, vedi, allora riconduci a tutti i gatti, Sant'Antonio. Oggi sto con meglio la furita che pirina e domani me ne faccio comprare due da Monica perché ci ho avuto una musina questa notte e domani mi faccio comprare la che pirina nuova. E ho il bigliassa di Basì, ma io sicuramente me lo sono preso al supermercato dove c'è gente e cose. È una forma influenzale perché anche il mio meccanico mi ha detto che non riusciva nemmeno a muoversi, gli è venuta la talonite, una lombosciatalgia, dice che era tutta durosa. Ma a me tutte le ossa, la verità, non riesce neanche a alzare e tirarmi in piedi, per carità, andavo in bagno. Se tu pensi a poco che non uscivo, ma un mese a una strada mi sono sentito, andavo a pisciare, ho pisciato ancora, fatelo conto. Ma che le dai, ho avuto pure da fare il per terra, un casino già, male, male, male, male. Adesso ho mangiato pure come si deve, poi stasera mi sono già due fette di panettone, senza canditi. E vabbè, adesso leggermente meglio, meno male, anche non mi sono venire a letto con Silvia. Però non sono uscito per niente, perché mi devo venire a corpo d'aria. Ma non sai a me che effetto mi fa il panettone, mi fa venire bruciare lo stomaco, nessuna cosa me lo fa il panettone, sì. A me lo faceva già, ma tantissimo tempo fa. Mi faceva cinta lo stomaco quando mangiavo la pasta asciutta col sugo. Non ho capito il perché. Caso strano non me l'ha più fatto. E avrei avuto un po' di ucciso, magari bastava il sugo per farti, se non la birra è fuoco, se c'hai luce la dice che la birra è fuoco, come bevi un goccio di birra ti crepa. Ma io non ne bevo birra, capito? Niente, ho trovato da poco, la settimana scorsa ho trovato la birra sangria, me ne sono mandato 4 impulli. Ma ti piace il sugo? Cioè, non bevi, ma bevi sangria, boh, sempre vino il suo. Ma un vino liquoroso non è vino per mangiare, capito? Un goccettino ogni tanto fa bene. si è messo a posto anche la vitamina D che ce l'avevo ben bassa. Mi ha detto di bere molta acqua, l'unica cosa perché c'ho le urine molto dense. Addirittura. Mi ha detto di bere anche fuori dei pasti. Dice tanto l'acqua che beve in pasti non fa altro che rallentare la digestione. Invece vuole bevuta molta acqua fuori dei pasti, anche se non ha sete, ha detto di bere. E vabbè, comunque io l'acqua già la bevo, quando ho sete la bevo. La mia bevita è l'urina è trasparente, quasi dell'acqua che c'è nel gesso. L'acqua la tirò stesso, grazie a Dio. Ma comunque l'urina le porto anch'io, non mi hanno detto niente di granché, sempre tutto normale. No, ma anche le mie sono normali, solo che ho detto che devo bere di più, perché se no sono troppo dense, capito? No, anche le mie non c'hanno nulla. I valori sono buoni, capito? Però ha detto che sono un po' dense, perché bevo poco. Se bevo 2 litri di acqua, troppo poca per le pastiglie che prende, è troppo poca, perché le pastiglie praticamente le provocano, la disidrata, no? Insomma io già sì sono qui di condizionatori. Esce che lo spengo perché intanto. Cazzi. A me è male che non cazzo per abbungato. Franco. Oh yeah. E comunque c'è della deviance, là. C'è ciucciona lo stesso. Ma non lo sentivo mai, io sono già giorni che non bevo niente, perché sto male. Ma dopo c'è un ciccino, me lo bevo. Anche io mi sono comprato il lambrusco, Torino, ma ne bevo un bicchiere a pasto, la mattina solo a pranzo, la cena no. Ma a pranzo un bicchiere di vino me lo bevo. Ed è veramente buono, ti fa digerire pure perché è gasato. Ma ormai ne sta prendendo il vino, adesso ho fatto, era che adesso domenica, a pranzo. Ma questo vino così buono, e dove l'hai preso? Il medico l'ha preso lì a Sacro Cuore, mi ha indicato dove. Ma buono veramente. Che vino è? Aspetta, me l'ha detto, me lo ricordo. No, non ricordo, ma lo devo far dire di nuovo. Novello mi sembra, sì, Novello. A Sacro Cuore, ma dove a Sacro Cuore? Allora, tu quando vai verso la chiesa e devi scendere giù che c'è un'enoteca del vino. No, sto sbagliando, se è Sacro Cuore, non dove c'è la chiesa. Cazzo, via Pavese, però è via Pavese, sono padrato. Via Pavese è dove ci sono le scuole numero 6, dove abita voi. Bravo, allora l'altra via che ci esce praticamente verso per andare al semaforo. La rivedi? Capito, è di fronte all'Avis, dai. Ecco l'Avis, sì, esatto. Lì si chiama Novello. Ma di dove è questo vino? Il vino Novello è quello nuovo, Mettoni, che poi una volta che è non lo puoi più bere, lo devi bere nel periodo che lo fanno appena e poi non si può conservare quello. Adesso, ma non è esabilitato, buono, saporito, a me piace molto, infatti. E quando sto bene, vado, un giorno me lo prendo. E mangiato un bicchiere me lo prendo. E quello lì c'è una rivedita, è vero. Non so se si chiama Paccioni, vabbè, comunque non so se ha cambiato da quando c'ero io, comunque sì, c'era una rivetta di bibite, di acqua, di vini. Sì, quel pranzo è tua mattonella, se l'ho maderrato, Celestina è buono, veramente. Sì, ci ho capito chi è. Ma è scuso. Scappa. Perché? Quello Novello, noi, una volta finita la stagione, dovevamo rendere tutti i risi, dovevamo dare, perché non si può vendere quello Novello fuori stagione, si può vendere solo il periodo che lo fanno. Perché non si può vendere fuori stagione? Cioè? Che lo ritiravano il Novello, no? Non si prendeva più, una volta che è passato quel periodo se lo ritirano i rappresentanti, vengono, tu lo conti, mi fa la fattura, li reso. Non lo sa, quindi quello va bene per questo periodo e basta, poi insomma entro gennaio, febbraio, il novello è vino nuovo, mi tuni. Ho capito, si chiama non prendo quello lì, ma è buono come sapore, capito già, ma è dolce o secco? No, è dolce, perché secco a me non mi piace, né spumante né vino, quindi secchi non mi piace. Ma neanche a me, Gianni, a me piace quelle dolci, Gianni, buoni. Io prendevo, quando ho giunto via Monica, Astigancia. Astigancia è un spumantino dolce e frizzante, buono. Che ce lo conosco. Ma c'è anche il brutto, c'è. No, il bruttotto non lo prendiamo mai. Alto Magnadua, Luca. Sa che mangiare dove l'altro? Beh, se no prenderà pasta con i frutti di mare. Infatti, ma come l'ha fatto la pasta con i frutti di mare domenica? Io domenica ho mangiato il cinghiale. La torta era buonissima, guarda. Poi la carta, niente, era di tutto, era. Ma a lui, cioè, infatti, non voleva fare niente. Perché è stata tutta la sua compagna che l'ha voluto fare. E quindi niente, cosa portare, nulla, la fame buona. Il mio pensiero gliel'ho preso a lui e anche la zia, perché la zia le ho fatto quel tabacco e mi ha regalato un cesto, mi ha regalato, e non si deve neanche permettere a spendere il suo danno, gli ho fatto un regalo anche alla zia, è rimasta contenta. Infatti mi ha detto, mi devo attaccare un'altra plafoniera, dove quella era tolta pelle. E vabbè, la mano l'ha lavata, ti dico la faccia di chiarissima. Non mi ha pagato abbastanza bene, guarda la verità. Poi, io sono il tipo che quando mi ha dato i soldi o quel materiale, quando ho speso 70, venga signora, questo è il resto, qui lo so io, ho speso 70, 30 euro lì, che non lo fa nessuno, mi fate lì, se ne accorta che c'è fuori il cilindro con questo, ma io ho fatto sempre così, a me non piace fare capoditi, ma buffonete sempre. Vabbè, se ti paga a fare il lavaggio, non è che devi fare capoditi, e certo già li fa. Comunque il meccanico che lavora in casa, piazzale suo, l'amico di Emanuele, l'amico meccanico, ha provato, c'aveva la saxo, c'avevo, e ha detto, già, per ora ho fatto cose indietro, cose indietro, e mi ha svolto la ruota, e sì, qua c'è il cilindretto, aspetta che telefono, domanda mia, telefonato, sì, quando vieni, vabbè, portamelo subito. Vabbè, 47 euro costa, cazzo cito, vabbè, non ci vedo a starlo, cazzo. Fatto sta, più 35 euro dopo, adesso mi raggiungo 80 euro al giorno. E fatto sta che, quando sono andato a casa, poi mi guardo su internet, e costa un bel meno, aspetta un attimino, ecco. Telefono non lo lui alle coach, che c'è capelli la cena. E mi ha detto 12,50 costa, ci è detto, è andato a pagare la macchina. Grazie, telefono a questo stronzetto, ecco, ho detto, grazie, avevi truffato quanti soldi del cilindretto. E perso un cliente, perché da te non ci verrò mai più. Grazie, non è vero, ho parlato da me, sei bugiardo, perché ci sono andato io. Adesso ci telefono io, ma era telefoni. E poi ci sono tutti, no? Ci mangi così, ci cambi la tua famiglia così. Ingrassando i prezzi e stato nelle macchine. E da quella volta non te l'ha fatto. Se ci guadagna, no, no, ci guadagna, sia sul pezzo che sulla mano d'opera, figura. E allora, grazie. Oh. Io ho imparato una cosa, Manuel, adesso chiunque dove vado e mi fanno lavoro, voglio i soldi, dico, aspetti, la ricevuta me la fai. Se ti dice no, non le posso fare, allora io non ti pago. Se io ti sto chiamando la finanza, qua la mettiamo. E oggi poi faccio così. Ma lo devi chiedere prima, a me me la fa sempre. A me mi fa sempre la ricevuta quando mi fai lavori, mio meccanico. No, è corretto. A parte che un meccanico con le contrappalle c'ha un posticino per lavorare, però fa corsi di tutti i tipi, è abbastanza aggiornato sulle macchine elettroniche. Ma il mio meccanico neanche da poco, neanche lui mi fa la ricetta perché non la voglio io, la conosco. Io vado a Pietro Lintas, penso che lo conoscerà Lintas. Ce lo conosco, con la latte dolce. Che non siamo andati insieme una volta, te lo ricordo. Via Macellaro, e via. E via Macellaro all'inizio c'era anche l'avagista Marco, un altro filandrone, mi fa che ne dai. Che poi dietro c'è il fratello che fa il carrozzere. Cappa. Ehi, già ho capito chi è. Siamo andati insieme una volta, ti avevo accompagnato per ritirarti la macchina, che poi non era pronta. Sì, io. E vabbè, comunque. E non ricordo il meccanico. Però mi sono detto lì che c'è questo meccanico che è bravo, lo conosce anche tuo nipote, mi ha indicato dove sono andato, questo Marco. Si trova esattamente dove c'è la Lido, finisce da Lido, su la Z, scende giù e c'è che la Volkswagen. Mi ha fatto la tosse. E quindi, sulla destra, questo viotto lungo, ancora due c'è questo meccanico. Praticamente sarebbe la finale, quello che giù ripara le macchine dell'SDA. Comunque, sì, quella, eccetera, eccetera, dove cambiare la scatola sterzo, l'ho comprata, quella. Quando posso venire, ma chiamami lunedì e ti do una risposta. Cazzo, lo chiamo lui. Squilla, niente. Vado a richiamare di nuovo, occupato, oh cazzo. Squilla, niente. Beh Gianni, dalla mattina alla sera, anche non ce l'ho fatta più, ho chiamato un messaggio, sei inaffidabile. Vado a un altro meccanico che è meglio. E la mattina fa più. Ma ce ne sono tanti così. Io oggi ho chiamato per fare l'elettrocardiogramma, a 3 ore ero un telefono. Attendere in linea per non perdere la priorità acquisita, attendere in linea per non perdere la priorità acquisita, questa voce mi dava, mi fanno venire, guarda, nervoso. Vabbè, allora ho lasciato il telefono acceso, quando ho sentito che ha risposto, ho risposto, sai quando mi ha dato l'appuntamento, se glielo dico non vi gridi, il prossimo anno a febbraio. Guarda un po' a me, per far avvisare il elettrocardiogramma, io ho chiamato a novembre e mi ha detto mi fa. E me l'ha data l'Inps, che non mi piace di manco. Io l'ho sempre fatto al policlinico oppure da quello che c'è in via Diaz. Ma io ho imparato una cosa, adesso quando devo telefonare al CUP non ci telefono più. Vado via Tipio, la linea direttamente, lascio il CUP e me lo faccio lì stesso. Lo so, però al CUP c'hai più possibilità, capito? Se magari a Lina non c'è posto, non ti dà, invece al CUP ti chiami, ti possono mandare a Platamona, ti possono mandare via Diaz, ti possono mandare via Tempio, ti possono mandare... Sì, ma via Lina, via Tempio, è sempre CUP, capito? Se tu telefoni al CUP, ti risponde Cagliari, loro guardano il computer, invece io vado a Lina e ti guardo nel posto più vicino e dico dove vuole andare, posto più vicino. Oggi mi ha risposto questa ragazza gentilissima, con una voce così dolce, guarda, stavo per fare la corte. Fai da bravo. Ah, gentile, veramente, poi mi ha detto, ascolti, facciamo una cosa, per il momento riprenda questo appuntamento, poi mi chiama fra qualche giorno, chiama e gli dice che c'è già questo appuntamento, però che è troppo lontano, se è possibile averne uno più vicino, e magari se ce ne lo danno, capito? Ma quello è di Cagliari però. No, non era l'accento cagliarità, era l'accento di Sassari, che lui non era o Alghero, roba così, ma non era di Cagliari, cagliarità ne si sente quando parla, si parlano tutti così. No, ci sono quelle che non si sente l'accento cagliarità, ma poi il 070 mi dà quello che chiamo CUP. No, io faccio il numero verde 135 in Varese. Allora sto cercando anche adesso, lascia vedere. Oh ma quanti spam che mi chiamano a me, che rottura di palle, cazzo. Squillo, lo vedo perché è spam, quindi. chiudo, parli squilli e poi se tu rispondi non ti sto giù, chiudo il telefono. Ma è come se non trovi di ballega. Tony, io ho sbagliato l'entrata, ci sono andato nell'aeroporto. Non ho capito già. Ti ho sbagliato l'entrata, invece di andare l'entrata dopo. Ho fatto quella prima e ci sono uscito dove c'è l'elisoccorso, dove afferra l'elisoccorso, dove c'è la pista proprio. Ho parcheggiato la macchina tranquillo. Sono andato a fare la visita, che adesso tutto un altro mi ha acciappato, non erano guardie, però penso che fossero addetti al volo, eccetera, eccetera. Mi ha detto, ma la macchina la so, sì. E lei dice, non doveva metterla, ma come ha fatto a entrare? Ho detto, ho trovato il cancello aperto, sono entrato, pensavo che fosse questa l'entrata. No, ha sbagliato, era l'altra. E io gli ho detto, vabbè, mi scusi veramente perché non mi sono reso conto. E mi ha detto, no, non c'è problema, l'interessante è che non sia arrivato l'elicottero, se no gli facciamo la macchina in due qua. L'allarme nelle forze, sì, si può tranquillare, ma io infatti per sbagliare non entro più da là. Assolutamente entro da giù e faccio tutto il giro dentro, capito? Se mi chiede dove sta andando, di abitologia, quindi. E vanno là, e c'è il posticcio dietro. Sempre così ho fatto, mi sono trovato sempre bene. No, non si può più entrare da lì, Tony. C'era il cancello chiuso, io sono andato più avanti per quello, perché era chiuso il cancello là. Hanno chiuso tutto, con lampa, quella che fa il soccorso con l'elicottero. Quelli hanno fatto chiudere tutti i cancelli, capito? E ci sono le guardie che aprono, che chiudono, no? Solo che deve... che era difetto del rimasto aperto, e lei come l'ha fatta entrare, non ho capito se si è chiuso il cancello. Ho detto no, io l'ho trovata aperto e sono entrato, pensavo fosse questa l'entrata, anche se ho visto che era un po' diversa, però poi ho visto il caseggiato dove si fanno le visite, quindi sono andato a piedi un pezzo e che mi sono condurato e ci ho fatto tutti i gatti a tornare alla macchina. E cosa è successo? Ma la sua? Ho detto sì, perché qua non può parcheggiare, non sa che qua se viene del soccorso con qualche urgenza rifà la macchina in due qua lì. Sì, ma io ripeto, ho detto per mio zitto sempre, fa tutto quel giro lì. Chi è che vuole entrare avanti? Sento un bifo in sottofondo, piccolo. E vabbè. Capito già, io entro sempre da via Rezzetto. E tu me l'avevi detto che si entrava da lì, ma io non lo sapevo nemmeno. Tu mi hai detto che si entrava dopo, prima dei carabinieri, quindi così ho fatto. Come, perché erano 6 mesi che non ci andavo, l'altra volta ero entrato da lì e era tranquillo, capito? Se mi hanno fatto parcheggiare tutto qua, c'erano le guardie giurate, mi hanno fatto andare avanti e parcheggiare sulla sinistra. Ma non c'ero mai entrato prima da lì, prima entravo sempre quando era dall'altra parte, in Palazzi d'Acca. Adesso hanno cambiato anche i piani, Tony. Adesso prima era il primo piano, adesso sono sopra. E il mio dottor Francino è il primo piano. Vabbè. Però l'ultima volta ho fatto la visita, mi doveva segnare praticamente tutti i ragazzi che devo fare il giorno visto a marzo. E non li funziona il computer. E mi ha detto, vabbè. Vuoi vieni un attimino e te la faccio, adesso non funziona il computer, va bene, non c'è problema. Sono passati 2-3 mesi, cazzo, boh. Adesso, non so, se mi sento che male, dopo le feste se ne parla. E se la piglia a luce. Sono rientrato. Programma, l'unica della prima mattina e poi devo fare l'elettrocardiogramma, boh, basta. Se devo cambiare gli appuntamenti, che devo andare lì, perché adesso non ne cambierò più per telefono, se uno non può andare deve andare lì e dare la disdetta lì, perché se no non ne fa, capito? E poi ha detto di non fare più le analisi nei laboratori privati, perché ha detto che lui non deve stare a copiare 3 ore il coso delle analisi. E io gli ho detto, ma io ce l'ho vicino a casa mia, perché devo andare da altre parti? Lo so, allora faccio una cosa, quando le fa, viene qua, le porta l'infermiera, poi quando deve venire, così io me le scarica l'infermiera e poi me le porta su già fatte. cestiera. Modesto cercare cosa c'è nel computer, c'è la cosa che costa. Ma tu sei entrato? Sono entrato. E sta ancora che pigliamo le basse, lo faccio io di notte, le basse e via. No, ma che è vero, ma lo sto prendendo lo stipendio, se no per fare il loro dovere. Ehi, ha già tutti quanti i giliardi a Vanca. Ci ha detto che non stanno a perdere tempo a copiare tutte le analisi, che le devo portare all'infermiera giù, prima così l'infermiera le copia e poi le mando. Ciao, ma ti faccio io di dolci via. C'è un dottore che fanno anche 2-3 mila euro di stipendio al mese. Ma chi non ti innanzi? Un altro Corix. Cosa? Corix, un altro solo il telefono. Ehi, ehi, tranquillo. Mi passi, lo passo io di notte, a posto, veramente. La gente che deve lavorare non lavora, sono veramente una massa di mandorazzi. Ma siccome loro ci hanno molti pazienti, deve essere quello lì che ha più. Cosa faccio vendi, eh? Hanno più pazienti di quelli che dovrebbero avere, perché c'è una crisi della sanità, tu che sono città gli affetti. Ma lo stipendio, grazie a Dio, è buono. Già lo grigio, se no non travaglia, cioè, stipendio come vogliono loro, se ne vanno fuori i dottori, infatti la maggior parte degli specialisti se ne stanno andando fuori a lavorare, che li pagano tre volte di più di qua. Ti viene di Dina, fanno i figli, io quando andavo a consegnare le bombole, di diare per manchi caliente di messa, che ma veramente, io guardo, ma... Un mese devo andare a travagliare, poi da chi si cosa fare, regge proprio, villette, cioè, veramente, io dicevo che era sempre una cosa ingiusta. Tu ti sta difettando il microfono, si sta abbassando. Sta abbassando? Sì, o ti stai allontanando tu, o la voce piano piano si stava abbassando. E guarda, a vedere se va meglio adesso. Adesso non lo sta facendo, se non fate lui. Gamba gamba. Cavolo, questa gente, veramente, io rimango all'invito, rimango. E tu? Dove sono bussati? Loro lavorano da seduti, non ne fanno discorsi, di certo. Ma scusami un attimino. Non dico che mangerebbe io una villa, ma... un po' di dignità a me che sto lavorando, cioè, potremmo essere sempre il servo, cioè io sono il servo e chi sono la grande. Ma tu hai detto che devono avere una segretaria loro, perché loro non sono dottori, non sono addetti al computer, sono dottori. Da un accento. Da una parte non hanno tutti i turni perché c'hanno molti pazienti da visitare, un casino, ogni volta si devono bloccare perché sono 3-4 fogli quando fai le analisi. Che vuoi che ti dica? Vabbè, adesso ma a parte tutto quello, a parte. E magari quelli vabbè avranno una segretaria, è meglio, magari una persona in più che lavora. Che fa quelle cose lì, già andrebbe meglio. Va bene, a parte tutto quello, però cavolo, sono lì, stanno bene. Allora ti dico, noi abbiamo studiato, siamo ricchi ma abbiamo studiato per essere ricchi. Tu studiato hai? E allora ti mi dici su chi vai, tu ci dici? Io non lo compatisco. Cosa tu? Io non lo compatisco assolutamente. Allora io non ho studiato e non devo avere gli stessi diritti voi. Ma ti vai. Senti che regge non comprendo tutto anche. Allora io che mi faccio il culo la mattina e la sera non devo avere diritti due lo stesso. E chi non mangio io pure una bocca, non mangio solo tutto. E vai, tu sei un plebeo, non hai studiato, non ce li hai i diritti di quei bastardi. A poco non ce l'ha data, è un'ora a mangiare. Cosa chiama lei? Odissea. Di andare a puzzare alla segretaria. Tu mi hai rompito i coglioni, dimmi come ti si fa a chiamare tutt'ora subito, gli dico. Se no ti sono pure, ti sono cotenti pure da vaccone, gli dico. sei su microfono, se no si rompe di lui. Vabbè, è meglio fa così. Prova a fare un passaggio lungo. Oh, vai tre. E adesso già si capisce. Beh, capo, forse è l'educa tua, che cosa? Era troppo forte, non... era quasi incomprensibile qua. Come facciamo così? Te lo dica a me, a vedere, di portare le analisi alla segretaria che ridiamo. Già non posso camminare io. Figureggiati un po' careggio, se mi dici una cosa del genere cosa gli dico? Sono diventati decidiati, prima facevano tutto, adesso stanno cercando di dire, di fare meno possibile. Gli ho detto, ma non se ne fa la vergogna di dire una cosa simile, l'avevo detto. Cazzo, lei è pagato per tenga, queste sono le analisi, le faccio dove cazzo mi pare, mi piace, e non me ne dica più di queste cose, l'avevo detto. Se ne vuole così, se no manco le analisi faccio più e non ci vengo più neanche a visitarmi. Rispettate, ti stavo dicendo, mi ha detto se ne fa la SL, me ne spediscono direttamente qua al computer, io non devo copiare nulla, capito? Io lo so, com'è? Uno riguarda, non devi fare i viaggi, è che se tu andi alla SL, già non ti rispondi, quando telefoneggi per pigliare l'appuntamento, quando li fai l'analisi, cazzo non ho capito. L'altra volta a me, guarda, mi è capitato che dovevo fare quelle analisi, te lo ricordi quelle analisi che non mi voleva fare nessuno? Te l'ho fatto fare da Massimo. Sì, ma per dire lì, sono capitato, ho trovato un'infermiera brava che mi ha fatto passare davanti a tutti, non solo l'altro, perché mi ha visto che ero tutto crepato, non potevo camminare né nulla. Cazzo. Però lì, se vai a chiedere l'appuntamento lì per fare le analisi, e quando lo vai? Mai, perché non ti rispondono. E io vado e entro subito, se vado lì, se c'è chi dico io entro subito, capito? Ma le fa fare il dottore lo stesso. Ma io non lo so. A me non mi rispondi anni. Ora il matessi se lamentato, mi accontento di pagare. Però cazzo le faccio quando e dove voglio io. E se il dottore mi dice una cosa del genere, gli dico andà a fanculo. Questa volta ho pagato 50 euro io. Perché era 47 più l'analisi delle urine della mattina, perché non me l'ha detto il dottore, metto di fare solo quelle delle 24 ore, ho fatto quelle delle 24 ore e mi ha detto no, ci sono anche quelle della mattina, quindi il giorno dopo ho dovuto portare quella della mattina, cioè sono stato 3 giorni per fare queste analisi, perché lui non me l'ha detto, perché mi ha detto solo quelle delle 24 ore. Beh, fatto sta che ho pagato 50 euro in tutto. Ma volete ridere adesso? Ridiamo. Per fare l'ISEE da quest'anno mi vuole 25 euro. Sì, è vero. Ma c'è già scritto dall'anno scorso dove faccio, dal capo dove vado io, su al mondo. Ma ti pare possibile una persona povera? Cos'è successo, Gabriele? Una persona povera che non ha niente, cioè deve pure pagare. E se non paghi non te ne fanno, eh? Sì, perché lo Stato non li sta pagando, capito? Quindi devi pagare lo personale, e chi tu. Se non li paga lo Stato, li paga, ne paga a te, i figosi. E l'analisi lo stesso, la stessa cosa. Se non paghi non ti ne vasini, perché hanno da pagare il materiale che ci vuole, e gli operatori non li devono pagare. E da dove escono i soldi se lo Stato non li paga a questi? Gabriele, non toccare niente. Il microfono non toccarlo, vieni qua. Oh. Ah, non si tocca. È curioso, eh. Guarda, questo coso rosso, Così, cioè da quest'anno anche di tutti i documenti della bambina. vino dobbiamo pagare lo stesso, tutte le cose dobbiamo pagare lo stesso. Ma questo governo, ma perché non va, si sparano tutti che fanno, ma sono, guarda, sono vomitevoli, sono veramente, quando li vedo io qua giro canale perché sono vomitevoli. E hanno fatto la legge adesso con l'ICE, no? Per il nuovo ADI, no? Per non darne a nessuno. Dice che vogliono calcolare i redditi lordi, non quelli netti, è una cosa illegale. Eppure l'hanno fatto. Sì, proprio, ma non dà un cazzo a nessuno, mi non hai compreso? Sono vomitevoli qua. Io quando è il giro canale perché mi fanno venire i nervi, mi fanno venire i nervi. Cioè tu come puoi pensare, ma il lavoro dov'è? Dove sono i posti di lavoro? Cioè come tu puoi pensare che uno, ma non vuole che hanno inventato quest'altra cosa, un piccolo sussidio che non ce la fai, manco a pagare una bolletta, non ce la fai. Cioè se il lavoro non ce n'è, cioè mia cognata sta lottando per avere un posto di lavoro, ne ha le scatole piene, ne ha. Cioè il tirocinio qua, il tirocinio là, tutte prese in giro. No, cioè, lei dovrebbe fare educatrice per i bambini, per la scuola e cose. Non c'è posto di lavoro. E ci sta anche contrabbattendo, perché lei vuole, cioè che cosa faccio? Me ne vado in strada, me ne vado, una casa, ho un abito da pagare, o questo, come fa una persona? Ti so che dicendo, a gennaio se ne avremo a Bisà, io dico sì, la rivoluzione, chi per gente che non va manco pane va mangiato, vedrai tu cosa succede a gennaio. E allora, dai l'utente perché vuole il posto di lavoro, vuole, le ha chiesto, vuole il posto di lavoro, vuole, cioè, non altro, perché per quello che ha studiato, dimmi. In pratica, loro vogliono che stanno tutta la vita con corsi, così non pagano la gente come si deve, ma la pagano meno. Capite? Subito questa che fa il corso è quella che lavora, non lavora, e quindi la pagano di meno. Non ce n'è lavoro, non ce n'è per nessuno, qua sono tutti qua, che promettono, poi promesse dove sono, ma per carità, l'unica è, lo so, non è facile andarsene fuori e invece grazie, Sassari addio, quanta gente c'è fuori di Sassari, di Cagliari, da tre parti della Sardegna, tutti fuori sono, perché qua non c'è un cazzo. Adesso mi domani vanno in capannone a lavorare, meno male, dopo tanti giorni fermo, cioè non c'è lavoro, chiede di tramarca, poi vai andare, cioè ma di cosa siamo qua vedendo, no, io cioè, sono adibito, cioè sono veramente pietrificato, cioè di come si sta vivendo adesso, peggio che mai, già era peggio che mai. Ma questa cosa del lavoro la vogliamo risolvere e basta. Dobbiamo prendere a calci nel culo tutta quella mondezza che viene da fuori. No, dopo ne fate travaglio. La produzione del latte per dire qua, boh. I pomodori qua, boh. Un'altra cosa qua, boh. La roba da fuori, meno possibile, iniziare il lavoro come era una volta. No, chi il ministro della cultura, il ministro delle cavolate, ci stanno buttando la Fiat in Francia, ma dove si è mai visto? Ci hanno portato la Fiat in Francia, ma dove si è mai visto? Cioè queste cose, questi cose, non vanno bene, bisogna cambiare l'Italia, l'Italia deve essere cambiata. Deve essere proprio rivoltata, deve essere. Fanno schifo, sono vomitevoli, mi fanno vomitare quando li guardo, meglio che non li guardi nemmeno. E di essere aumentato lo stipendio, ma la sua si l'accudi a piedi. Cazzo! E per aienti non va a fare manco mamma mia. noi siamo in dittatura, ancora non si, hanno voluto la Meloni, visto là cosa, tutto il casino che ha fatto. Uno peggio dell'altro, già era peggio. Madame Meluzzi, peggio ancora, sì, la cosa da vedere è il lavoro qua, lo dico per fare il pane, fuori, l'hanno messa fuori per fare la pasta, per fare, no, non per lo pianti qua, io ti do i fondi e lavori seriamente, lo pianti qua e tu lavori e prendi anche gli operai a lavorare. Fuori dalle scatole, tutto il mio drinco, le cose che arrivano fuori, fuori dalle scatole, io vivo tutto da qua, fuori, fuori dalle scatole, quello bisogna pensare. Un componente, costruiscilo in Italia, made in Italy, fuori, tutto a calci nel culo vogliono prese. Ma noi bisogno di drink avremmo, se la Sardegna era lo granaio di lo Stato era, figurati se avevamo bisogno di drink noi, e dirà, se hanno voluto l'Europa mi pigliava in cura, va. Tutti fuori dalle scatole, tutti fuori dalle scatole, a calci del sedere vogliono prese, a me non mi interessa l'Europa, a me mi interessa che sia un travaglio in occhi. No, che boh, a me dell'Europa non mi frega niente. Cioè, ma come si è mai visto cose del genere, cose del genere? Solo qua si può vedere, e in tutta Europa è successo un casino. Perché noi non avremmo bisogno di niente. Se produci più latte ti mettono la multa, non hai visto? Cazzo, quando mai? E devi pigliare la roba da fura. La carne, cazzo, di la moccia, la fura, la nostra. Cazzo, noi dobbiamo pigliare la carne di fura che è di categoria infima, per non dire altro. Guarda, per come è messa l'Italia, Natali, potremmo vivere delle nostre cose, boh. Non avremmo dovuto bisogno di niente. Quello è poco ma sicuro, ma purtroppo hai visto cosa succede. Hanno voluto l'Europa e si devono adeguare, capito? Ed è uno deve pigliare la cosa dell'altro, un macello. Travaglio non viene il lupo, ma nessuno. Ti voglio vedere come ci sarà da fare. Come si fa? Come si fa? Spiegamelo. Come si fa a fare il lavoro? Se quella roba la produce un altro, qua non c'è lavoro, non c'è l'operaio che lavora per fare quella roba. Devo finire questa storia, chi sa storia del vini? Fuori dalle palle, soprattutto nell'agricoltura, fuori dalle scatole, la roba tutta qua, comprarla tutta qua, non ammazzarli di tasse alle imprese, alle cose, e la produzione deve essere qua, finita. E ciamacca, è disoccupato in occhi, non qualche sigazzati di corsi, di cavolate, è disoccupato in occhi. Ciamma, tizio, caglia si impronga, io a travagliare domani. A raccogliere la stagione degli olive, a raccogliere le olive, la stagione di cosa? A raccogliere arance, a raccogliere questo, a fare quest'altro, non tassarli, metterli nei guai. Guarda, noi andiamo, possiamo guardare di quella roba, trasportarla anche in America, per dire. Capito? Non abbiamo bisogno noi di tante cose, tutta la produzione nostra. E mandarli a calci nel sedere, mandarci a calci nel sedere. Luca c'è ancora? Natalino! Ehi, ero giù che stavo portando roba giù. E sono risalito adesso. Mi è capito che ho detto. Mandarci tutta a calci nel sedere, Ghisi. Ma cos'è l'Europa? Io avviati. Quando non c'era l'Europa stavamo bene. Stavamo bene perché avevamo le fabbriche nostre, avevamo le cose nostre, l'importazione era poco. Adesso c'è tutta la mondezza, tutta la mondezza. Perché la roba la devono prendere sarda, anche pagandola di più, devono cazzo boicottare tutto, se la gente non ne compra, non ne portano di roba, ma se non compreranno roba di figura, sai di più. Invece cazzo compareggiano la roba da riginesi, compareggiano. Chi si va? Ignoranti, cazzo. Ma purtroppo adesso il giro è quello. Il giro purtroppo tu anche prendo l'anno, cioè prendo, ci sono le acce della Spagna. Purtroppo ti danno, gli chiedi di dare un euro, quale santo te ne darà 2,50, 3 euro. Purtroppo tu che non ne hai soldi, dopo devi andare a mangiarti un arancio, anche se non è tanto buono. Dico le spagnole, il problema è questo. Invece si possono abbassare le tasse e prendere le stesse prezze. Solo che sono stati sempre una massa di ignoranti. Bisogna ascoltarli, non comprare roba da fuori. Non si tocca, Gabriele. Non si può andare avanti, non si può andare avanti, così c'è un travaglio. E là c'è per un travaglio. Se c'è un pasto che aspettiamo, guarda, ci potrebbe essere lavoro a dare a mangiare a tutti. Solo se si cambia la mentalità, se non si può portare quella porcheria da fuori. Perché la produzione sarebbe di più, ci sarebbe più fabbisogno, e la roba sarebbe nostra. Cioè, tutte le campagne, ecco, da tutti chi si campagnone, perché non li metti in condizione di vendere la loro roba, anche nei supermercati, invece di arricchirsi a fare un bacari da. Tu, la colpa è nostra, non ne dobbiamo comprare roba di fuori. Quando i cinesi vedono che non vendono, se ne vanno da soli da qua, perché vedono che non lavorano e quindi se ne vanno. Gli inedi, romatesi, non bisogna non dargli travaglio e si indugini dai nostri. Quando vedono che non riescono a campare, se ne fuggono da soli. Natali, il problema è che tocca comprare quel prodotto, ma cosa di dinasso chi sono? Bisogna tirare la cinghia e non comprare roba da fuori. Cazzo. E vedrai che la roba si mette a posto. Quando allora vera roba nostra, compriamo solo roba nostra. Ma tra boicottarli, se non ne vendono non ne comprano di roba nostra. Per poco di va. La roba dobbiamo prendere quella sarda, anche pagandola di più, i bigli di manco, però chi si azzaglia. Vedrà quando non hanno come non travagliano i più, si ne fucina l'azzurra a ieri. Chi si divura specialmente. Se non si tocca la parecchio. Aspetta un attimo. Non si tocca la parecchio, vieni qua. Stavo con tu tutto me. Questo papà non vuole, è suo, non sono i tuoi giocattoli, va bene. Oh, già va bene, adesso proprio mi corri come mia moglie, non sta tanto bene. Guarda, è sempre un vicio capogiro in cura, adesso vediamo cosa c'ha. Stai calmo, non si tocca quello. Sì, ne ha tutto un cavolo, ed è curioso, e voi tocca tutto, la vaga è minori, non ha compreso. Voi fa vita a Edo, era un buon ti cingava a me, e fa vita a Edo. Dica che cosa, Gabriele. Edo può toccare. Può toccare, non si tocca, si rompe l'apparecchio. Mi dà sai Edo, guarareddo. Andiamo diretta. Gabriele che vuol toccare tutto. E allora sono curiosi, sono e vedono le cose nuove e devono educare, devono sapere. Non ha compreso. Che vicini sono usciti. Antonio, devi mandare alla moglie, devi mandarmi. Lo sa bene la moglie di Antonio. E come c'è te, Mattesi? Ma perché pure lei c'è capogiri? No, è tutta influenzata, è tutta molta mari e da bu. Ma va ne contagia già a me, mi vedrai. Non si tocca l'apparecchio, che mi si rovina. E non è così, no. Ma cosa vuoi fare? Che hai fatto così, sempre tucca tutto. Sempre tucca. Vabbè, è piccolo. Allora bisogna stare attenti, mi arrivano se se scutava alla scuola, se ti data il mobile, che la corrente, la cattunente, perché fa anche veloce, se ti dato. Poverino. Perché hanno fame di sapere loro adesso, capito? E devono controllare tutto, devono vedere, toccare. Ah, ma tu devi giocare finta che è minori. Ricordate che non quali esperimenti che faceva papà, che se no guai, una volta anche un biglietto che collegato, anche bruciato la cosa, la guardia di babbo, ma pensi che doveva stare a casa, ma ormai che non mi ha apparato, è uscito un fumo, è uscito, perché in realtà c'era una cellula, una batteria di quelle da 12 volts, chi sa il radio era al 20, gli ho attaccato la doppia alimentazione dietro, c'avevo questo spinotto qua, questa radio, perché si poteva attaccare anche a 12. Cattarola, il video era al 20, io l'avevo attaccato la doppia cosa, è uscito un fumo, gatta, nel copio. Ok, cacciavici, Antu, cuari. No, sono in magazzino quelle. Cuari, pinzi, cacciavici. A chi se no si vanno a fare esperimenti, mi. Sono in magazzino quelle. Di qualcosa Natalino, saluta. Saluta. Sei anche linguacciuto, sei. Circa. Questo Gabriele non l'hai sentito parlando. Euia. Gabri. Gabriele. Gabriele. Che cosa Gabriele? Devo stare attento, siamo messi già pigliando un po' e pare, ma non mi si è passata la Gabriele in lui e si è sparato un bizzino puro. Mamma mia, se ne faccia dalla Gabriele, se parla di burrubicino. Gabriele! Mi parla adesso, di qualcosa. Gabri, ciao! Tutto a posto? Saluta! Ciao Gabriele! Cappa, saluta! Saluta! Saluta anche Concetta! Saluta! Bicciola! Dada, però già saluta! E allora? Ciao Gabriele! Ciao Antuda! Mi corico pure io che non è Giulia. Salutalo da parte mia. Ciao anche da Concetta. Ehi, dai, ci sentiamo. Saluta. Ehi, adesso andiamo a mandarla anche noi, ok Gabriele? Vai a fare la nanna. Mira, è stato scurlo, lo riacciamo a me. No, si grida. Buonanotte, ciao Antu. Vai a fare la nanna tu, Monello. Ciao, buonanotte. Il problema del microfono può essere, boh. Ma sei qua anche, capito? Meno male, stavo chiamando lì. Allora, no, ma lo so cosa ho fatto. Ho provato a toccare il watt, però sto ricevendo col Baufen senza antenna. E quando mi sentivo bene, stavo andando e mi hai risposto anche tu. Poi è andato a calare e non va più ora. Guarda, adesso sono... mi sento, ma non è, non è come prima. È qualcosa di finale sicuramente, buh.